un nuovo stile di vita, un nuovo stile di civiltà. Allora dice che per affrontare questi problemi bisogna affrontare questi temi che sono quelli anche della letteratura, del beat, del modo di vivere, di fare inchieste su questi argomenti, e che l'attenzione che Trotsky aveva per questi aspetti, secondo lui, sta ad indicare che Trotsky aveva colto la connessione di questi dati. Dall'altra parte però dice che Trotsky aveva anche colto l'urgenza di accelerare i processi produttivi, e dice che nell'accelerazione dei processi produttivi aveva cercato delle soluzioni pratiche che ricorrevano però al principio della coercizione, individuando il modello militare come il modello a cui rifarsi per trovare questi modi nuovi da applicare alla produttività. E lui avanza dei dubbi, dice che c'è un pericolo di bonapartismo in questo, e teme che proprio anche il modello militare forse non sia adeguato ad affrontare i temi che ci sono davanti, anche se io qui non riesco molto a intravedere cosa voglia poi dire Gramsci a questo punto, perché dall'altra dice che poi il metodo coercitivo è un metodo assolutamente valido per risolvere questi problemi. Un'ultima questione, un ultimo testo in cui sempre nei quaderni del carcere si parla di Trotsky. E io lo voglio solo leggere il testo perché mi sembra di difficile interpretazione, nel senso che è difficile arrivare a quel che pensa veramente Gramsci mentre scrive questo, forse. Parla del parlamentarismo nero, del parlamentarismo che nasce quando il parlamentarismo legale è stato negato. E lui dice che anche quando esiste il parlamentarismo formale, spesso quello che conta è il parlamentarismo nero, e quindi bisogna studiare il parlamentarismo nero. Quando poi non c'è neppure più il parlamentarismo legale, allora evidentemente solo il parlamentarismo nero ha possibilità di esprimersi. E lui dice che nello studio della trasformazione dei modelli politici è molto importante studiare questi passaggi, e consegna alla sua curiosità questi problemi. Allora dice: il parlamentarismo nero pare un argomento da svolgere con certa ampiezza, anche perché porge l'occasione di precisare i concetti politici che costituiscono la concezione parlamentare. I raffronti con altri paesi a questo riguardo sono interessanti. Per esempio, la liquidazione di Leone Davidovi non è un episodio della liquidazione anche del Parlamento nero che sussisteva dopo l'abolizione del Parlamento legale? Perché dico che è interessante il testo, prima di tutto perché proprio mentre parla dell'abolizione del Parlamento legale, del Parlamento nero, che citi la liquidazione di Trotsky come un caso esplicito in cui sarebbero entrati in gioco questi processi, mi sembra significativo per la storia complessiva del movimento marxista in generale, ma poi anche perché c'è un giudizio chiaro, mi sembra, sulla situazione russa, dove c'è questa condanna, mi sembra, dell'abolizione del Parlamento legale e dell'abolizione anche del Parlamento nero, quindi di un'abolizione di qualsiasi possibilità di confronto e di dibattito politico. Ecco, questi sono gli accenni di un possibile eventuale confronto tra Gramsci e Trotsky. Siamo Cerrato, ricordo che il convegno verrà trasmesso da Radio Città 103 in differita. Livio Maitan, del Segretariato della Guardia Internazionale e della Direzione Nazionale di Democrazia Progressiva, che parlerà dell'attualità di Trotsky. In una riunione che dura un pomeriggio sarebbe assurdo pensare di poter trattare tutti gli aspetti di una personalità che ha fatto esperienze così straordinarie in un arco di tempo così lungo, e quindi inevitabilmente ognuno di quelli che sono intervenuti ha una parzialità, non può dare un quadro d'insieme. Io, anche stimolato dall'ultimo intervento che è stato fatto, mi soffermerò su un aspetto della riflessione teorica e politica di Trotsky, e cioè le idee che Trotsky ha avanzato, le battaglie che ha fatto in relazione alla situazione del movimento operaio nei paesi capitalisti. Io sono perfettamente d'accordo con coloro che pensano che il contributo più originale di Trotsky al marxismo riguarda senza dubbio le riflessioni teoriche e l'analisi delle società di transizione, le società di transizione burocratizzate, però è un'idea sbagliata che Trotsky non abbia detto nulla, abbia detto poco, abbia detto delle cose sbagliate, che è la tesi più frequente, per quanto riguarda i problemi che si sono posti al movimento operaio tra le due, diciamo a partire dalla metà degli anni 20 e soprattutto negli anni 30. Dico perché in generale si pensa a questo, e del resto questo riflette un po' anche, questa interpretazione è riflessa un po' in una delle citazioni di Gramsci che è stata fatta, secondo cui Trotsky sarebbe stato l'uomo capace di elaborare e di avere delle intuizioni in una fase di offesa, di offensiva, una fase rivoluzionaria del movimento operaio, mentre quando si tratta di una fase, diciamo, di una guerra di posizione, per usare l'immagine gramsciana, cioè, detto in altri termini, in una situazione in cui non si creano situazioni rivoluzionarie o pre-rivoluzionarie, e quindi non ci sono prospettive di lotta rivoluzionaria per il potere, Trotsky sarebbe stato, per così dire, disarmato, avrebbe avuto poche cose da dire. Ora, tutto questo non corrisponde a verità e si può verificarlo, se vogliamo, letterariamente, leggendo quello che è stato scritto, che Trotsky ha scritto, e nella pratica reale della lotta del movimento operaio. Credo che su questo, quindi voglio insistere, su questi aspetti. Peraltro, lo stesso Gramsci, una delle obiezioni che si può fare alla critica che Gramsci ha fatto a Trotsky, ignora un punto essenziale, e cioè che il riferimento alla svolta operata da Lenin è un riferimento al terzo, al quarto congresso dell'Internazionale Comunista, che si era tradotto nell'adozione della formula del fronte unico proletario, lanciata esattamente perché si riteneva che si era entrati in una fase in cui, senza avere una vera ristabilizzazione del sistema capitalistico, tuttavia non era più la rivoluzione all'ordine del giorno come lo era stato tra il 1917 e il 1919, non soltanto nell'Unione Sovietica, come un altro degli intervenuti ha giustamente ricordato, dicendo che non si deve parlare solo del 17, ma tra il periodo 17-19. Su questa svolta dell'Internazionale Comunista, che a quel momento aveva provocato molte polemiche e differenziazioni, con riflessi successivi nel movimento, immediati e successivi nel partito italiano, Trotsky si era allineato sulla stessa posizione di Lenin e aveva fatto la battaglia per il fronte unico. Quindi anche questo rilievo, anche dal punto di vista puramente della precisione storica, questo rilievo, diciamo, ha scarso fondamento. Ma c'è di più, è stato accennato già da Moscato alla situazione tedesca della fine dell'inizio degli anni 30, nel periodo immediatamente precedente all'avvento di Hitler al potere. Esattamente in quel momento è la problematica del fronte unico proletario che è stata di nuovo ripresa da Trotsky e con alcuni dei suoi scritti, che sono i più lungimiranti, i più serrati di analisi critica e di prospettiva politica per il movimento operaio. E a posteriori, sia pure con 30 anni di distanza, anche quelli che avevano sempre sputato su Trotsky e avevano difeso a morte, a spada tratta, la politica dell'Internazionale Comunista stalinizzata all'inizio degli anni 30, hanno dovuto riconoscere che erano scritti di grandissimo valore storico-politico. Quindi in questo senso, in un momento in cui le esigenze difensive si ponevano al movimento operaio, che allora restava il più forte dell'Europa occidentale, il movimento operaio tedesco, di fronte a un attacco, diciamo, che ha avuto le conseguenze che ha avuto, Trotsky ha delineato una prospettiva che non era una prospettiva, che teneva conto di questa esigenza difensiva, che partiva proprio dall'esigenza di come difendersi da questo attacco per creare le premesse di un contrattacco. E questo è un dato che difficilmente può essere contestato, è storicamente assolutamente incontestabile. E quindi su questo, ripeto, una chiarificazione mi sembra estremamente ovvia e deve essere fatta. Ma voglio ritornare un momento indietro, cioè alla metà degli anni 20 o anche addirittura all'inizio degli anni 20. Quando il capitalismo comincia negli anni 20 a riprendersi dalle difficoltà che gli aveva creato la prima guerra mondiale e c'è di nuovo una relativa ascesa economica del capitalismo su scala internazionale, sottolineo il relativa, negli anni 20 è stata molto relativa, tranne in alcuni casi, chi è stato a livello dell'internazionale comunista che per primo ha analizzato questo fenomeno e diceva ai cosiddetti estremisti di allora della Terza Internazionale, badate bene, non si può più dire che il capitalismo non ha più nessuna possibilità di rilanciarsi, di riconoscere una nuova fase di ristabilizzazione relativa. E quindi questa era anche un'analisi puntuale e precisa da cui ricavavano poi implicazioni chiare per l'impostazione, la strategia politica del movimento operaio. Non si trattava solo, diciamo, di compiere un'analisi più corretta, più corrispondente alla realtà, ma anche di ricavarne delle indicazioni politiche per il movimento operaio. E questo caratterizza l'opera di Trotsky attorno alla metà degli anni 20. E tra l'altro, Trotsky è tra i primi che analizza la dinamica del capitalismo americano. In uno scritto, se mi ricordo bene, 24-25, sull'America e l'Europa, Trotsky descrive la situazione di allora e dice la prossima, andiamo verso una fase del capitalismo in cui l'imperialismo egemonico non sarà più quello europeo, quello britannico, quello tedesco, era già stato sconfitto nella prima guerra mondiale, ma sarà l'imperialismo americano. Questa è la nuova forza egemonica che si viene creando, che viene emergendo. E negli anni 30 poi ricollega questa analisi, il compagno lo ricordava qualche minuto fa, con l'analisi dei fenomeni di ricomposizione economica degli Stati Uniti d'America, col fenomeno del fordismo e poi anche col fenomeno diciamo politico e sociale del New Deal di Roosevelt, cioè lo sforzo compiuto dalla borghesia americana per superare la grande depressione del 1929-1932. In tutto questo non possiamo dire che ci sia in Trotsky un'analisi minuta, globale, complessiva, ma ci sono articoli, saggi, in cui queste tendenze vengono indicate con estrema chiarezza. Quindi in questo senso mi sembra che ci sono... affermare, come lascia intravedere Gramsci e come molti altri hanno detto, che Trotsky poteva sia essere un grande stratega della rivoluzione, soprattutto della rivoluzione in un paese arretrato come era stata l'Unione Sovietica, però non aveva assolutamente gli strumenti concettuali e la capacità di dare delle risposte ai problemi che si ponevano al movimento operaio, ai partiti comunisti, ai partiti operai, nel contesto di una società dell'Europa capitalistica o dell'America del Nord, in una fase che non è una fase rivoluzionaria. Questo, dal punto di vista puramente, dal dato di fatto, non corrisponde a verità. Si può poi avere delle opinioni diverse, ovviamente, su quelle che sono state le analisi che sono state fatte e su quelle che sono state le indicazioni strategiche, questo è un altro discorso, ma che questa problematica non sia affrontata in pieno non si può assolutamente sostenere. E ritengo che in genere sono stati sollevati dei problemi che ancora oggi sono tutt'altro ben lungi dall'essere superati. Diciamo, la problematica che allora avanzava Trotsky è una problematica che ha rapporti, secondo noi, abbastanza stretti con la problematica che tutt'oggi il movimento operaio deve porsi o dovrebbe porsi. e mi riferisco qui alla per toccare un'altra esperienza cruciale del movimento operaio degli anni 30, alla politica dei fronti popolari. Anche su questo devo fare una precisazione. Alcuni degli studiosi o dei critici di cose del movimento operaio che hanno riflettuto e che hanno tenuto conto di quella che è stata l'esperienza dello stalinismo per ricavarne certe conclusioni più positive, hanno ammesso a un determinato momento che Trotsky effettivamente sulla questione della lotta contro il fascismo in Germania aveva visto giusto e che quindi se il movimento operaio tedesco o l'internazionale comunista stalinizzata avesse adottato i punti di vista di Trotsky, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. E guardate bene, già ne ha accennato di passata il compagno Moscato, ma io credo che bisogna fare una piccola riflessione, una brevissima schematica riflessione, ma che è tutt'altro che secondaria. La politica condotta dall'internazionale comunista è avallata pienamente dal Partito Comunista Italiano tra il 1930 e il 1934. In Italia, non è il tema di questa sera, ha avuto certe conseguenze per il Partito Comunista negative, ma tutto sommato limitate. Ma per il Partito Comunista Tedesco ha significato la distruzione, letteralmente la distruzione. E per il movimento operaio tedesco ha significato una disfatta da cui a livello di coscienza di classe il movimento operaio tedesco non ha ancora recuperato oggi a 60 anni di distanza. Quindi vedete le conseguenze micidiali che ha avuto un determinato corso politico e quindi l'assoluta pertinenza dell'analisi critica trotskiana. Ma veniamo alla politica dei fronti popolari. Su questo si dice, per esempio, o alcuni storici anche del Partito Comunista dice sì, effettivamente Trotsky ha visto giusto e lì è stato uno degli errori fondamentali della internazionale stalinizzata e del Partito Comunista Tedesco. Però all'occasione della politica dei fronti popolari Trotsky ha avuto un atteggiamento settario e non ha capito questo e quindi lì si è dimostrata la ragione i limiti della sua concezione politica. Bene, su questo anche non posso fare che alcuni accenni, poi gli accenni possono essere stimolo a letture o stimolo al dibattito immediatamente dopo che avrò finito di parlare. Ma qual era la critica essenziale che faceva Trotsky alla politica dei fronti popolari? Diceva che oggi la crisi che si sta verificando in Francia e in Spagna, come voi sapete con una coincidenza, qualche mese di distanza gli avvenimenti erano coinciso, la crisi spagnola, l'inizio della rivoluzione spagnola e della guerra civile spagnola e l'ascesa rivoluzionaria in Francia, possono rimettere in discussione l'equilibrio della borghesia in tutta l'Europa occidentale e quindi permettere una fase di ripresa nuova, di ascesa del movimento operaio che compensi la disfatta che era stata subita in Germania e successivamente in Austria, per non citare che due paesi. E quindi dice, qui c'è una prospettiva di nuovo di un'ascesa rivoluzionaria che bisogna cercare di stimolare, di favorire con una prospettiva politica complessiva. E che l'internazionale comunista abbandonasse la linea di denuncia del Partito Socialista come dei partiti socialdemocratici come socialfascisti e quindi riprendesse la tematica di una unità dell'azione, perlomeno, tra le organizzazioni proletarie, benissimo, questo va benissimo. Però il problema è, prima di tutto, il problema qual era? Che la politica di fronte popolare non implicava solamente una proposta strategica di alleanza di tutte le formazioni del movimento operaio, organizzazioni politiche e sindacali, altre organizzazioni di massa del movimento operaio, ma si figgeva persino un'alleanza con partiti della borghesia e non con settori marginali della borghesia, perché in Francia l'alleanza si è realizzata col partito radicale, che in quel momento era il partito più importante della borghesia francese. Allora, in questo senso, diciamo, la critica di Trotsky, diciamo, era assolutamente netta. Diceva: se voi fate questo, se voi volete una collaborazione sistematica, compresa con una partecipazione al governo con queste forze politiche, voi non potete al tempo stesso favorire un continuare dell'ascesa proletaria e rischiate di separarvi dalle stesse masse che vi sostengono, perché non potete rispondere ai loro interessi. E invece di creare le condizioni di una prova nei confronti della classe dominante, voi andate verso l'esaurimento rapido di questi movimenti. Accettate in sostanza di essere voi quelli che gestiscono il potere capitalistico. E badate bene che questa fosse la logica del fronte popolare in Francia. Non era solo Trotsky che lo diceva, ma voi, molti di voi ricorderanno, c'è un'espressione che mi permetto di definire immortale, di uno dei maggiori capi socialisti dell'epoca, Léon Blum, che è diventato il dirigente del governo di fronte popolare, e ha detto: quello che posso fare è di essere, cito tra virgolette Léon Blum, il gerente leale del capitale. Questo l'ha detto Blum. Diciamo, viva la faccia, almeno, dice, non mascherava con le fasi fumose a cui siamo abituati oggi quella che era la realtà di una politica. Dice: io qui che faccio? Non posso fare altro. Le conseguenze di questo qual era? Effettivamente, che se si vuole gestire la società capitalistica non è assolutamente possibile difendere conseguentemente gli interessi di quelli che sono sfruttati dalla società capitalistica. Questo mi sembra evidente. E che dal punto di vista istituzionale, anche politico, si deve mantenere il gioco ai livelli parlamentari e non si rafforzano quelli che sono gli organismi dal basso che si formano inevitabilmente in un periodo di accrescita rivoluzionaria delle masse. E in Francia non si trattava di una finzione, di una fantasia, perché nel giugno del 1936 c'è stata la grande occupazione delle fabbriche, in cui cominciavano a crearsi comitati democratici dal basso. E se si vuol gestire il capitale, evidentemente si deve combattere contro queste forme di espressione democratica rivoluzionaria dal basso. Questa era la denuncia, l'analisi critica che faceva Trotsky. E per caso questa si è rivelata una analisi falsa? No, perché il fronte popolare, poco più di un anno dopo la sua grande vittoria, entrava in crisi e si dissolveva rapidamente. E in Spagna c'era la sconfitta nella guerra civile. E del resto, dobbiamo dire, un uomo che sicuramente non è mai stato di opinioni rivoluzionarie né trotskiste, ed è stato uno, e Paolo Striano, che però che ha avuto tuttora, anche fino ai suoi ultimi scritti, tendenze largamente giustificazioniste, in particolare nei confronti di Togliatti, che però è stato sempre contraddistinto da una onestà intellettuale come storico, nel senso che se voi leggete il libro di Spriano, da non mettere neanche lontanamente il paragone con il Libello di Amendola, fornisce tutti gli elementi di fatto, tutti i punti analitici che permettono di ricavare anche conclusioni diverse o opposte a quelle che ricava lui. E questo è uno storico onesto. È uno storico onesto. Ora, che cosa dice Spriano nel suo libro, non sulla storia del Partito Comunista, ma nel suo libro successivo, I comunisti e Stalin, sulla politica dei fronti popolari? Dà questo giudizio. Dice: la raccomandazione si riferisce al fatto che quando c'è stata la svolta nel 1935, dell'internazionale comunista, dicendo questi non sono più socialfascisti, adesso dobbiamo collaborare. Evidentemente la svolta era dura, brusca, e quindi hanno dovuto un po' dorare la pillola e dovevano dire bene, però noi, anche se facciamo l'alleanza, anche se andiamo al governo, non faremo quello che hanno fatto sempre i socialdemocratici al governo, prendevano le distanze, lo dovevano fare. Però questa era una raccomandazione che restava sulla carta. E Spriano dice, la raccomandazione di favorire governi di fronte popolare sarà l'indicazione fondamentale a cui si sacrificheranno le stesse rivendicazioni fondamentali che erano state richieste dalla stessa internazionale perché non si rischiasse una riedizione dei governi socialdemocratici sostanzialmente borghesi. Ma poi tutto questo è stato abbandonato, scrive Spriano, come accadrà in Francia, col risultato di compromettere gravemente la natura popolare dei governi di fronte e di staccarli dalle masse. Quindi qui in questo giudizio di Spriano c'è il riconoscimento implicito che la critica che faceva Trotsky non solo non era settaria, dogmatica, non partiva da sacri testi o niente di tutto questo, ma era perfettamente pertinente e ha corrisposto a quella che è stata la dinamica reale dei fronti e della politica dei fronti popolari. Siccome neanch'io non voglio usurpare il tempo, prendo altri due o tre aspetti rapidamente. Il primo aspetto è per quanto riguarda il giudizio sulla situazione economica di quegli anni, del periodo tra le due guerre. Ho già accennato al fatto che negli anni 20 Trotsky è tra quelli che fanno un'analisi realistica della situazione e che non dicono qui il capitalismo è andato a fascio per sempre, dappertutto, non ha più niente da fare. Al contrario, analizza quelli che sono gli elementi che il capitalismo, di cui il capitalismo dispone per una determinata ristabilizzazione relativa. È vero che c'è, e questo è stato un oggetto di polemica molto aspre a volte, nelle stesse file del movimento trotskista c'è una frase nel programma di transizione scritto da Trotsky per il congresso di fondazione della Quarta Internazionale nel 1938 che dice pressappoco, cito a memoria, quindi scusatemi se non è la citazione non è precisa, che ormai il capitalismo non era più in grado di assicurare uno sviluppo ulteriore delle forze produttive e che quindi già era in una fase di crisi irrimediabile. Ma questo evidentemente, soprattutto negli anni del boom economico prolungato dell'Europa occidentale, per quelli che si interessavano a discutere con noi in quell'epoca, questa frase ci veniva buttata in faccia e dice eccoli qua, vi pare che il capitalismo nel dopoguerra nei paesi dell'Europa occidentale non è stato più in grado di avere uno sviluppo delle forze produttive. Benissimo, cioè, del senno di poi, come si dice volgarmente, sono piene le fosse. Quindi quando uno analizza gli avvenimenti, non nel 1938, ma nel 1960, sta su una bella poltrona a casa, legge tutti diciamo, le riviste, i giornali economici, e dice guarda questo fesso nel 1938 che cosa scriveva. Senza pensare invece che bisogna fare qualche riflessione sul contesto di allora. Nel contesto di allora, qual era la situazione? Non dimentichiamoci che la crisi del 29-32 ha cominciato a essere superata soltanto verso il 34-35 e anche 36 in alcuni paesi e che il New Deal di Roosevelt negli Stati Uniti è stato una delle operazioni politiche che ha permesso una certa ripresa dalla crisi, dalla grande, quella che è stata definita storicamente la grande depressione dell'economia capitalista. Però questa ripresa è durata poco. Nel 1938-39 di nuovo riprende una fase recessiva grave dell'economia capitalistica. E oggi qualsiasi storico, economista serio che vuole analizzare il corso economico capitalistico a lungo termine, non le vicende congiunturali dagli anni 20 e 30, deve arrivare alla conclusione, come sono arrivati tutti gli studiosi più seri, che quello che ha permesso al capitalismo anche negli stessi Stati Uniti d'America, di uscire dalla grave depressione degli anni 30 è stata la Seconda Guerra Mondiale, non è stata un meccanismo economico, una specie di meccanismo economico automatico che permettesse al capitalismo di riprendere la sua vitalità, ma è stato questo atto traumatico, drammatico, costituito dalla Seconda Guerra Mondiale. E quindi è ovvio che dopo questo atto drammatico l'analisi deve ripartire su nuove basi. E in questo senso l'analisi di Trotsky era perfettamente pertinente in quel momento, ma non può essere riportata meccanicamente per quella che è la fase successiva. Due altre considerazioni volevo fare prima di chiudere. Se uno degli aspetti della problematica trotskiana in quegli anni è l'analisi delle grandi formazioni che dominavano il movimento operaio dell'epoca, in certa misura domino ancora ora, cioè della socialdemocrazia e dei partiti comunisti. Io credo che chiunque, chi voglia leggere per esempio certe analisi di Trotsky sulla democrazia tedesca, socialdemocrazia tedesca, o sul partito laburista inglese per esempio, il suo opuscolo scritto verso la metà degli anni 20, tra quella che era la socialdemocrazia della seconda metà degli anni 20 o degli anni 30 ad oggi, la differenza risiede nel fatto non che ci sia stato un mutamento qualitativo, ma soltanto nel fatto che le tendenze che allora cominciavano a svilupparsi ora si sono sviluppate in forma mostruosa. Ma quello che forse è ancora più interessante sottolineare è che ci sono alcuni scritti di Trotsky della fine degli anni 30 in cui si intravede i fenomeni che negli anni 70 sono stati caratterizzati come i fenomeni dell'eurocomunismo. E cioè diceva che una volta che i partiti comunisti fossero entrati in una determinata logica, e questo lo scriveva dopo l'esperienza dei fronti popolari o nella fase finale dell'esperienza dei fronti popolari, cioè nel momento in cui cominciavano a porsi il problema della collaborazione con la loro classe dominante, inserirsi nei meccanismi istituzionali della società borghese e quindi ad essere determinati essenzialmente da quella che era la dinamica interna della società in cui si erano inseriti, dovevano inevitabilmente perdere il loro carattere di partiti internazionalisti e tendere a divenire partiti comunisti nazionali o nazionalcomunisti. Questa era un'intuizione, dovete ammetterlo, che oggi può sembrare anche un senno di poi, ma che nel 1938 non era tanto facile avere. E chiunque può controllare sui testi effettivamente questa intuizione. E l'ultimo elemento che mi pare importante, se poi ci sarà del tempo, vorrò dire qualche cosa su un altro aspetto capitale della concezione di Trotsky, cioè la costruzione contemporanea del movimento operaio su scala nazionale e su scala internazionale. E un altro elemento su cui concluderò è le indicazioni, vi ho accennato già in passata, alla problematica degli organismi di lotta del movimento operaio. Massari ha accennato, concordo assolutamente con lui, l'ha accennato di passata anche lui, che all'inizio degli anni 20, all'epoca di terrorismo-comunismo, Trotsky ha avanzato delle idee sul partito, sul rapporto tra il partito e i sindacati, che ovviamente oggi non possiamo in nessun modo condividere, ma non soltanto noi. Trotsky negli anni 30 fa una riflessione su quello che era stato il suo stesso pensiero, o in altri termini, sull'esperienza che ha fatta la sua stessa corrente politica quando ha cominciato a definirsi come opposizione di sinistra. Difatti le posizioni che assume su questi problemi a partire dalla metà degli anni 30 non sono più assolutamente quelle che aveva all'inizio degli anni 20. Cioè, ed è troppo facile polemizzare con le une senza tener conto che ci sono state le altre. E qui si vede che Trotsky afferma quella che è un'idea, secondo noi, fondamentale, credo, spero secondo tutti fondamentale, e che molti hanno considerato, tra l'altro, che fosse stata una scoperta di Mao Zedong, diciamo, non si sa su quale base, insomma, certe volte quando la base non c'è, in un certo contesto sociale le invenzioni vengono fuori una dopo l'altra. L'idea fondamentale è che i grandi movimenti, che il movimento operaio non si può organizzare soltanto nel partito, che il partito non è il solo strumento di cui si valga il movimento operaio, il movimento dei lavoratori, ma che si basa su tutta una gamma di strumenti, e che gli strumenti che non siano il partito devono godere della loro autonomia, e che una delle degenerazioni dello stalinismo è consistita esattamente nell'imporre l'egemonia e il controllo burocratico del partito su tutti i movimenti di massa della classe operaia o degli alti strati della popolazione sfruttata. E questa idea, che dopo l'esperienza del 1968-69 in Italia sino alla metà degli anni 70, dovrebbe essere acquisita, e credo che per esempio per Democrazia Proletaria è un punto essenziale della nostra concezione, per noi compagni militanti di Democrazia Proletaria. Questo è chiaro nel pensiero di Trotsky, questa indipendenza dei movimenti di massa nei confronti del partito, anche fosse il partito più rivoluzionario e più democratico, a maggior ragione se è un partito burocratizzato e che diventa opportunista, ma anche il partito più rivoluzionario e più democratico nel suo funzionamento interno deve rispettare l'autonomia dei movimenti di massa. E se i movimenti di massa o se le organizzazioni di massa assumono una dinamica che si ritiene sbagliata, non c'è altra soluzione che quella di combattere perché questo orientamento venga cambiato, ma non quella di cercare di imporlo con manipolazioni dall'esterno. Questo è un punto centrale. E l'altro punto centrale, anche qui credo che è una problematica che è familiare, diciamo, alla sinistra rivoluzionaria in Italia più in generale, e cioè quella dell'esigenza di creare degli organismi democratici dal basso, di auto-organizzazione, e di non ritenere che l'unica forma e la forma storica per eccellenza di organizzazione politica sono le istituzioni parlamentari borghesi. Questo è assurdo, perché queste istituzioni non sono state concepite e non hanno mai funzionato nello scopo di assicurare effettivamente l'affermazione quotidiana della sovranità della grande maggioranza della popolazione. E quindi il minimo che si possa fare, anche prima che si ponga il problema della conquista del potere, è quello di trovare delle forme di organizzazione o di auto-organizzazione da basso, la cui finalità è di esprimere costantemente, e non soltanto con il voto una volta ogni 5 anni, quella che è la volontà, quello che sono gli interessi, le sensibilità, le ispirazioni delle grandi masse. Questa problematica voi la troverete in Trotsky, mentre sicuramente non la troverete in altri dirigenti o teorici di quello che era allora il movimento operaio tradizionale. Ecco, queste sono le cose su cui noi pensiamo che il dibattito si debba svolgere. E un'ultima considerazione, se volete banale, se volete, diciamo, è un consiglio metodologico, banale, ovvio, però che se ne sente, che se ne tenga conto, ne dubito molto. Chiunque rilega oggi le opere di Trotsky può trovare molte cose da criticare. Nessuno di noi è disposto a morire in difesa di tutte le citazioni, di tutte le pagine, neppure di tutti i libri di Trotsky, sarebbe semplicemente assurdo. Però se vogliamo dare un giudizio reale sul valore del suo pensiero, della sua, come di qualsiasi altro, non soltanto, bisogna fare un giudizio comparativo e di vedere quanto scrivevano altri nello stesso contesto e riguardo agli stessi problemi. Questo è il confronto reale su cui vi apportare il giudizio. E su questo credo, fatelo pure, se non l'avete già fatto questo confronto, credo che Trotsky non ha niente da temere da un confronto di questo genere, il più rigoroso e il più severo che possa essere anche nei suoi confronti. tema è vastissimo, ci rendiamo conto, ci vorrebbe uno che rompesse il ghiaccio, che poi probabilmente no, anche se alcuni dei punti che volevo sottolineare poi sono stati in parte accennati e ripresi indirettamente dall'intervento di Livio. Credo che per valutare attentamente e con serietà quanto il contributo di Trotsky anche alla formazione di Gramsci e alla politica italiana, debbano essere valutate anche una serie di fatti politici importanti. Bisognerebbe andare più a fondo su quel periodo di quegli anni 22-24 in cui Gramsci è in Unione Sovietica e in cui maturano una serie di fenomeni estremamente importanti. Il primo è quello che in questo periodo Gramsci, attraverso le sue lettere da Mosca, lettere che invia al gruppo dirigente italiano, porta a termine un rovesciamento della linea politica italiana che concluderà poi con il congresso di Lione, cioè il passaggio, la rottura col settarismo, la rottura col bordighismo e il tentativo di costruzione di un nuovo atteggiamento del Partito Comunista Italiano di allora sulla base del fronte unico, sulla base di una serie di dinamiche più attente. Io non ho avuto occasione di seguire attentamente queste questioni, però ricordo ad esempio una lettura d'infanzia, perché quando conosco queste cose sostanzialmente perché ho letto, quando allora ero nel PC negli anni 50, quando quella raccolta di lettere è stata pubblicata in una selezione di Togliatti e quindi sicuramente molto molto epurata, con il titolo La formazione del gruppo dirigente sovietico. Questo testo è ormai introvabile, però le lettere sono recuperabili in altre, probabilmente si può lavorare sopra. Io ricordo, benché allora di Trotsky avessi sentito parlare soltanto attraverso, l'avessi visto scritto soltanto nel breve corso Stalin che leggevamo a quell'epoca nel Partito Comunista, e che sarebbe tra l'altro una lettura interessante per capire che cosa diavolo si poteva bere a quell'epoca. Insomma, attraverso la lettura delle lettere di Gramsci di quell'epoca, anche di quelle che ci sono nel testo, diciamo così, depurato da Togliatti, si sente una forza politica, una capacità di comprensione di dinamiche politiche e sociali che io poi non ho più ritrovato, se non quando 10 anni dopo qualcuno mi ha fatto leggere Trotsky, insomma. Qualcuno mi ha fatto leggere Storia della Rivoluzione Russa, e sicuramente, anche se non ci sono citazioni dirette, qui bisognerebbe andare a ricostruire nei rapporti, mi pare che un po' ci abbia lavorato Massari nell'introduzione al suo libro con Gramsci, se non ricordo male, con Gramsci e Trotsky all'opposizione, si possa ricostruire un'influenza diretta di Trotsky, di Lenin e di Trotsky sul pensiero di Gramsci, che ha avuto una conseguenza estremamente importante nella storia del movimento operaio italiano, che sono poi le tesi di Lione, eccetera. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto. Per aiutarti, quella raccolta, no, di Togliatti sulla formazione del gruppo dirigente, ci sta una lettera di Gramsci del 9 febbraio 1924, scritta da Vienna, cui esprime un giudizio entusiasta del nuovo corso che era stato pubblicato, il testo nuovo. Del breve. Esprime un giudizio entusiasta. Io tra l'altro l'ho rivolto qui, questo è una pezzo della lettera di Gramsci. Adesso non lo ricordavo. Secondo me scivolò all'interno di quell'antologia di Togliatti, perché nel linguaggio fumoso di Gramsci forse non si capiva bene che lui si stava riferendo alla questione di Trotsky. Io me lo sono sempre chiesto, ma mai Togliatti ha lasciato che quella lettera scivolasse e passasse quell'antologia. Sì, no, io ricordo più questa lettura giovanile magari che letture più recenti, però sicuramente sono stato fortemente colpito e credo che questo sia sicuramente un tema importante. Un secondo tema importante, ancora su questa questione del rapporto Gramsci-Trotsky, ma che ha un'altra valenza, insomma, un'altra portata, probabilmente cercata anche sul giudizio sul fascismo, il giudizio sulla dinamica sul fascismo, perché sia Gramsci sia Trotsky sono tra le poche persone che hanno un giudizio del fascismo non solo il fascismo del 33, del nazismo, ma già dall'inizio, dal fascismo italiano, capiscono determinate dinamiche, capiscono i pericoli e ne danno soprattutto un giudizio sociale di classe molto chiaro, ne capiscono il senso di controrivoluzione di massa della piccola e della grande borghesia e mettono in guardia, anche Togliatti lo fa all'inizio, però alla fine Togliatti rovescerà questa sua posizione accettando l'impostazione staliniana e di Dimitrov, mi pare, sul fascismo come espressione dei settori più retrogradi della borghesia e non come settori, come espressione di una controrivoluzione di massa della borghesia che arma anche la piccola borghesia, la quale ne è lo strumento diretto. Un terzo punto sul quale vorrei semplicemente richiamare l'attenzione rispetto a una discussione su Trotsky in questo momento e di cui probabilmente non si è parlato e vale la pena di accennare di più ed era un pochino nell'intervento di Livio Maitan, seppur indirettamente, è tutta la discussione rispetto alla rivoluzione permanente nei paesi del terzo mondo, cioè nei paesi, e su tutta questa questione che riguarda fondamentalmente il rapporto con le borghesie nazionali. Non possiamo dimenticare che lo stalinismo, il movimento staliniano che ha avuto l'egemonia sul movimento operaio in America Latina e nei paesi del terzo mondo, in tutti gli anni 30, 40, 50 ha portato alla totale subordinazione, e 60, alla totale subordinazione del movimento operaio e dei partiti comunisti alle borghesie nazionali nelle forme più, anche con aspetti così, fino ad arrivare a sostenere i peggiori dittatori di alcune di questi paesi, ed è un tema importante rispetto al quale anche una serie di altri importanti compagni hanno segnalato, Maria Teghi, Meglia, anche altri. Tra l'altro, questo fenomeno del rapporto, della comprensione delle dinamiche della rivoluzione permanente, cioè da questo punto di vista del rapporto, le dinamiche della rivoluzione permanente, cioè da questo punto di vista del rapporto con le borghesie nazionali, della legittima, della doverosa diffidenza nei confronti delle borghesie nazionali, non è solo dello stalinismo, è del maoismo e porta a una delle più grandi, credo che sia una delle grandi tragedie per il movimento operaio che abbiamo vissuto in questi anni, che è quella dell'Indonesia, che ha portato a almeno 500.000 comunisti uccisi, un massacro generalizzato in questo paese.